Riflessi d'oltre tenere. Una buona domenica da Katia Caramelli. Ha quasi 89 anni e una forza incredibile Wanda Poltaska, la più cara amica di Giovanni Paolo II. L'abbiamo incontrata a Milano, dove presentava il libro edito da San Paolo, Diario di un'amicizia, la raccolta delle lettere scambiate negli anni con l'amico Carol. Il Diario di un'anima è stato definito, un volume ricco di inediti, in cui la storia della Poltaska, medico, psichiatra, 4 anni in un campo di concentramento sottoposta ad esperimenti nazisti, e quella di Giovanni Paolo II si incrociano. Lettere che lo stesso pontefice, prima di morire, chiese di non bruciare. Tutto comincia dall'esperienza del campo di concentramento che segna profondamente la giovane Wanda. Durante quegli anni, sottoposta ad interventi nazisti e a rischio morte, comincia a farsi domande a cui la medicina non riesce a dare risposte. Una volta libera incontrerà però Wojtyła e le risposte che cercava sul senso di quella barbarie. Subito dopo l'occupazione tedesca si è cominciato a organizzare resistenza e lotta contro di loro nascosta, clandestina. Sono membro di questa iniziativa anche come altri miei colleghi e per questo ho ricevuto dopo pena per la morte, perché noi lottiamo contro il governo di Hitler. 4 anni di campo concentramento tratto come giorni di ritiro spirituale profondo, e poi questo, forse per questo Santa Padre mi ha potuto dare anche fiducia. Pensavo in questo tempo di salvare patria e dopo guardavo con occhi aperti come è possibile che uomini sono così disumani. Allora, veramente ritornando dal campo concentramento, io avevo perso fiducia all'uomo come tale. Dall'altra parte avevo possibilità di osservare altra estrema situazione, perché in questo campo si può anche vivere osservando grandezza delle donne, perché sono due signore che sono pronte ad andare alla morte in posto di più giovani di noi. Io ho visto grandezza dell'uomo, d'altra parte possibilità anche brutalità, criminali. E per questo mi interessavo tanto di filosofia e psichiatria e psicologia, per poter capire gente. Io ho ricevuto risposte dalla parte di filosofia di Karol Wojtyła, che il suo personalismo sviluppa in modo tale responsabilità della persona umana dal suo sviluppo interiore, di suo sviluppo spirituale. Il suo libro filosofico Atto e persona spiega come è stata costruita struttura della persona umana, che tutti hanno questa libera volontà, buon senso e anche coscienza. Sposata, madre di 4 figli, guarita miracolosamente al cancro per intercessione di Padre Pio, il cui intervento era stato invocato proprio da Wojtyła nel 62, la sua amicizia con Wojtyła non ha mancato di sollevare sospetti. Invece era autentica, ribadisce. Se non si crede in amicizia pura, come si può credere per esempio in verginità? Come si può credere al celibato? Santo Padre diceva di celibato sacerdotale, sempre celibato sacro. Tutto è possibile con grazia di Dio e poi con cervello umano, perché se Cristo dice amatevi tutti, non si può amare tutti come moglie e come marito. Se tutti significa amore come ama padre suo figlio. Siamo tutti figli di un padre, Padre Celeste. Santo Padre diceva fai il suo corpo sottoposto al spirito, perché bisogna fare un po' di disciplina per se stessa, perché il corpo umano deve essere dominato da spirito, e se non si pensa niente di spirito non si sa come fare. Lui diceva aprite occhi dell'anima, perché occhi del corpo vedono altre cose. I campeggi trascorsi insieme a meditare, la frequentazione quotidiana, ad un tratto però le cose cambiano. Wojtyła viene eletto al soglio pontificio. Per Wanda interviene la difficoltà di essere diventata la sorella, così Wojtyła la chiamava, del Santo Padre. Ma d'altra parte, vedi, anche lui, io domandavo come devo comportarsi come Santo Padre, lui mi ha detto, io non sono stato mai il Papa, non so come si comporta il Papa. Allora io sono io, e è andato all'ospedale per visitare il suo amico che è stato ammalato. Lui si comportava sempre come anche diventando vescovo non si è cambiato niente. La collaborazione in realtà tra i due si fa più forte a tutela della famiglia e in difesa della vita nascente. E a 5 anni dalla morte, racconta la Poltasca, Wojtyła mi ha ancora accanto. Sono in contatto con lui. Anche lui mi ha promesso che se vado a questo posto, in bosco dove siamo stati una volta, che non sarò mai sola, che lui sarà sempre con me. Posso dire che sono sicura che anche qui sotto le mie spalle. Voi non vedete, poi non credete, io sì. Sulla santità del Papa polacco poi non ha dubbi. Tutti sanno che è santo. E se Chiesa fa questo momento, questo ufficialmente titolo, oggi o domani o dopo domani o dopo 100 anni, non si fa niente, non si cambia niente lì al cielo. Io ricevo migliaia di lettere che mi domanda gente per pregare a Santo Padre, per fare intervento, perché muore, perché marito, perché figlio è malato con cancro, io devo fare che cosa fare con queste migliaia di gente, faccio tutto, mostro a Dio e basta. Prima di tutto, gente vuole miracoli. Ora c'è Don Willy Volonté, noi ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Veramente storica la recente visita di Papa Benedetto XVI alla Sinagoga di Roma. Il Vaticano e la Grande Sinagoga distano in linea d'aria 1 chilometro. Eppure ha la stessa valenza della distanza tra il cervello e il cuore. Un tragitto brevissimo, eppure lungo, tortuoso, irto di difficoltà. È stata la storia sofferta tra ebrei e cristiani nei secoli passati. Ma a cominciare da Papa Giovanni XXIII, su fino a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, il Tevere si è fatto più stretto, le due comunità accomunate dalle stesse radici religiose si sono fatte più vicine, tanto che Papa Benedetto ha potuto dire: il mondo ha bisogno della nostra amicizia. I rappresentanti della comunità ebraica lealmente hanno fatto presente al Papa le loro richieste, persino i loro giudizi storici, in particolare sul tanto discusso silenzio di Papa Pio XII. Un silenzio che fu dettato, ne sono certo, più da necessità storica che da deplorevole omissione. Un silenzio però recuperato da un clamore di opere di carità, aiutando a occultare nei conventi e nei monasteri gli stessi ebrei braccati dai nazifascisti. Ora però ai fratelli maggiori sarebbe opportuno raccomandare di non enfatizzare la tragedia, certamente orribile, della Shoah, così da far dipendere la loro identità solamente da questo dramma. Non rinchiudiamoci nel passato, ha detto il Papa. Il popolo ebraico dovrà proporsi al mondo per i suoi valori che nascono dalla fede che la tradizione ha loro consegnato. Solo così faranno rifiorire la memoria, che è tale perché viva, costruttiva e persino capace di perdono.